Con noi Enrico Castellani di Babilonia Teatri per parlare dello spettacolo Pedigree che sarà in scena al Teatro Era di Pontedera il prossimo 6 aprile. Enrico, ben ritrovato. Ciao, ciao Federico, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, per chi non lo conoscesse, lo raccontiamo brevemente? Diciamo due parole di Pedigree, dici? Sì. Sì, ma allora, Pedigree è uno spettacolo che racconta la storia di un ragazzo, di un uomo, con due madri, due donne, e lo spettacolo è una sorta di lunga lettera che quest'uomo scrive al donatore di sperma che in qualche modo gli ha permesso di nascere. E, diciamo che rispetto a tutta una serie di questioni che sono diritti da una parte, ma poi in realtà questioni di identità che hanno a che fare molto con il nostro tempo, con degli scenari che a volte sembrano futuribili e a volte invece sono molto più vicini di quello che ci immaginiamo. Lo spettacolo prova, come dire, a guardare tutto da una visuale un po' diversa da quella che si usa di solito, nel senso che generalmente quel che si fa è rimarcare quelli che sono i diritti di una coppia omosessuale di poter avere un figlio. Lo spettacolo non entra assolutamente in collisione con questo diritto, che per noi deve essere tale, che anzi lo spettacolo, come dire, in qualche modo sposa, però si pone a guardare tutto quanto da un altro punto di vista, che è quello di chi in realtà poi di questo figlio che nasce e che deve trovare un posto nel mondo e che noi crediamo comunque abbia bisogno delle risposte o comunque possano sorgere in lui una serie di domande anche in relazione al contesto culturale in cui cresce, alle quali forse non è così facile rispondere. E quello che proviamo a raccontare è la complessità e la ricchezza della vita e quindi l'impossibilità tante volte rispetto ad alcuni temi di scindere semplicemente tutto in bianco e nero, che a volte forse è troppo semplicistico chiedere esclusivamente di schierarsi, ma forse sarebbe più interessante invece appunto provare a abitarle queste domande, queste questioni che si aprono. Senti, com'è stata la genesi, l'idea di partenza? Ma allora, lo spettacolo nasce inizialmente su una commissione di Rodolfo Di Gianmarco per Garofano Verde, scenario di teatro omosessuale, anche se poi in realtà appunto la questione omosessuale è molto laterale nello spettacolo. Lui ci aveva inviato dei testi, poi noi abbiamo deciso di lavorare autonomamente invece a questo spettacolo, a questa scrittura con questo taglio, perché attorno a noi conosciamo persone con delle storie simili a quella che raccontiamo, anche se nessuna in realtà poi ricalca le vicende che lo spettacolo narra, e come spesso accade nella nostra vita, incontriamo qualcosa rispetto alla quale una risposta non l'abbiamo, proviamo a, come dire, a andarci dentro appunto per abitare queste domande che sorgono. Sì. Senti, come avete poi deciso di lavorarci su questa materia, abbastanza delicata? Ma in realtà, come provavo a raccontare, noi abbiamo provato da una parte, come dire, a mettere da una parte immediatamente qualsiasi possibile fraintendimento nel mettere in discussione quelli che sono dei diritti che riteniamo sacrosanti. Dall'altra parte abbiamo provato a costruire invece delle situazioni anche paradossali in cui nello spettacolo si racconta di questi fratelli, se così si possono chiamare, comunque venuti al mondo attraverso il seme di uno stesso donatore, sparsi per il mondo, che si incontrano annualmente tutti gli anni per Natale, che si ipotizza che ne possa nascere un altro, loro non lo sappiano, e magari un giorno se ne possano innamorare. Abbiamo costruito una serie di paradossi che ci permettevano come dire, di far emergere in modo eclatante la complessità delle questioni che stanno sotto tutto ciò. Senti, che reazioni ha suscitato dove lo avete portato? Ma le reazioni sono state, direi, entusiastiche, un po' da tutte le parti e anche da parte di tutti i pubblici, più o meno sensibili alla questione, nel senso che credo che lo spettacolo, anche se attraverso le provocazioni, si muova sempre con grande rispetto, e e non sposi una tesi, ma invece provi ad andare a sorpassarle le tesi, ecco, andare un po' oltre le barricate. E credo che questo sia arrivato in modo molto, molto forte e chiaro e sia stato il motivo per cui, come dire, questo tipo di lavoro e la sincerità con cui è stato fatto sia arrivata chiara al pubblico. Enrico, parliamo brevemente, raccontiamo anche brevemente il percorso di Babilonia. Sì, Babilonia Teatri nasce nel 2006, intorno a un primo spettacolo che doveva chiamare Cabaret Babilonia, che non abbiamo mai fatto, da cui però poi nasce il nome della compagnia Babilonia Teatri. L'anno seguente, con 2007, vinciamo il premio scenario con Made in Italy, uno spettacolo sulle contraddizioni del nostro tempo, del Nord-Est in particolare, che è il luogo in cui viviamo. E che poi per noi è cartina di tornasole, insomma, di un mondo molto più largo poi. E da lì poi abbiamo fatto tutta una serie di altri spettacoli che sono stati chiamati Trilogia dell'Italietta e poi a seguire abbiamo portato avanti parallelamente un lavoro più di scrittura, di drammaturgia nostra e dall'altra invece un lavoro con le persone, a partire da Pinocchio. E poi in questi anni Inferno, Purgatorio e Paradiso. Sì, abbiamo vinto diversi altri premi nel corso di questi anni, però come dire, un teatro che ha sempre avuto un occhio molto attento ai margini da una parte e a sporcarsi le mani col mondo dall'altra per provare a occuparsi del tempo in cui viviamo. Crediamo che il teatro abbia ancora questo compito di essere motore dialettico rispetto alle questioni che abbiamo davanti e che non sentiamo di poter risolvere, ma che crediamo di dover portare all'attenzione degli spettatori. Agli spettatori diamo anche tutti i vostri riferimenti web. Sì, beh, Facebook Babilonia Teatri, babiloniateatri.it è il sito dove si possono trovare tutte date e qualsiasi altro tipo di informazione. Direi che attraverso questi due canali, insomma, qualsiasi Certo. forma di informazione si trova. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Pedigree di Babilonia Teatri al Teatro Era di Pontedera il prossimo 6 aprile. Enrico, è sempre un piacere, un abbraccio e ci si vede presto. Assolutamente, ti ringrazio, grazie a te Federico, buon lavoro e un arrivederci a tutti gli spettatori e ascoltatori. Ciao. Ciao, ciao Federico.